Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Io tornerei in Italia solo come imprenditore, quindi l'idea è quella di portare l'organizzazione, diciamo l'esperienza organizzativa manageriale che ho avuto all'estero, che ho avuto in Irlanda, portarla in questo campo e facendo appunto imprenditoria in questo campo. Idealmente, più idealmente, diciamo che vorrei pensare che le cose possono cambiare, credo che si possa fare. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La voce di Matteo Trabalza, 37 anni, da 7 in Irlanda come consulente nel settore delle carte di credito, apre con un'iniezione di ottimismo alla nostra puntata. Matteo progetta infatti un rientro in Umbria con il programma regionale Brain Back Umbria, ma pone condizioni precise. La frase della settimana è copyright di Mario Calderini, consigliere del Ministero della Ricerca. Decine di migliaia di ricercatori e dottorandi italiani lasciano il paese per diamo scienziati di altissima qualità senza riuscire ad attrarne numeri simili dall'estero. A questo aggiungiamo l'allarme del fisico Giorgio Parisi. Negli ultimi 10 anni il turnover nella ricerca è stato completamente bloccato. Solo una parte dei giovani riesce a rientrare dall'estero, dice. E non se ne vanno solo i ricercatori. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Cogliamo l'occasione del Salone Internazionale del Mobile di Milano per lanciare l'allarme. In fuga ci sono anche i nostri designer, in partenza per destinazioni sempre più lontane. Oggi iniziamo con le nostre news e in apertura il 6° appello al Ministero del Tesoro affinché fornisca i dati sul numero dei giovani rientrati nel 2012 in Italia grazie alla legge bipartisan contro esodo. Giovani Talenti attende da 5 mesi queste cifre. Siamo contattabili a giovanitalenti@radio24.it. Paradossi d'Italia. Mentre i ministeri dell'università e della coesione territoriale annunciano il successo dell'iniziativa Messaggeri, i cervelli rientrati nel bel paese chiedono giustizia. Ma andiamo con ordine. Il progetto Messaggeri della conoscenza ha raccolto ben 113 docenti che dall'estero arriveranno a insegnare temporaneamente nelle nostre università del sud, per poi portare gli studenti italiani nei loro atenei, in un circolo virtuoso che potrebbe coinvolgere 2.000 studenti. Abbiamo archiviato concetto e metodo della fuga dei cervelli, ha affermato il ministro dell'istruzione Francesco Profumo. 42 i docenti italiani, il resto saranno stranieri, coinvolte le università di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Ma il paradosso è che lo stesso giorno dell'annuncio 14 cervelli in fuga rientrati in Italia hanno inviato una lettera aperta proprio al ministro Profumo per chiedere razionalità e tempi certi nelle procedure per continuare a fare ricerca nel nostro paese. I vizi burocratici e la lentezza nei processi di valutazione rischiano di lasciarci senza lavoro e costringerci a tornare all'estero, scrivono. Il rischio per loro è soprattutto di non poter ottenere né il rinnovo in Italia né poter cercare una nuova posizione all'estero. Nuova puntata della guerra per i talenti, a combatterla Stati Uniti ed Europa. Partiamo da oltreoceano, dove si è mosso persino il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che ha fondato un'associazione per facilitare l'afflusso di cervelli in America, oggi troppo spesso reso difficile dalle rigide norme sull'immigrazione. Zuckerberg mira a creare una vera e propria lobby targata Silicon Valley, in grado di fare pressioni su Casa Bianca e Congresso per cambiare le regole e agevolare così l'arrivo di giovani studiosi e ricercatori da tutto il mondo. Intanto il presidente americano Barack Obama ha annunciato per la fine dell'estate la riforma dell'immigrazione, che potrebbe fare raddoppiare i visti per l'assunzione di dipendenti qualificati. Il progetto contemplerebbe anche 75.000 visti speciali per giovani imprenditori stranieri. E ci prova anche l'Europa. Secondo la Commissione, l'Unione ha bisogno di attirare studenti e ricercatori di talento extracomunitari in grado di poter contribuire alla crescita e alla competitività del continente. Bruxelles denuncia, ancora troppi di loro affrontano inutili ostacoli burocratici. La Commissione ha proposto una direttiva ad hoc per soggiorni di studio o lavoro superiori ai 3 mesi. Sempre secondo l'esecutivo comunitario, nel 2011 l'Italia si è classificata al 4° posto in Europa per numero di studenti provenienti da paesi terzi, ma è scivolata all'8° posto se consideriamo il numero di ricercatori extracomunitari, appena 353. Intanto il Consiglio europeo ha adottato regolamenti utili a migliorare l'accesso degli imprenditori comunitari ai fondi di venture capital e ai fondi di imprenditoria sociale. Nel 2012 l'esercito degli scoraggiati cresce con più di 1 milione di over 34 che non cerca lavoro perché ritiene di non poterlo trovare, lo afferma l'Istat. Capitolo salari. Con un valore medio di $25.303 nel 2012, l'Italia si piazza al 22° posto fra i 34 paesi aderenti all'OCSE per salario netto. La penisola è all'8° posto tra i maggiori paesi dell'area. Persino la Spagna ha un salario medio netto superiore. Intanto la pressione di tasse e contributi in Italia è salita al 47,6% nel 2012, 12 punti sopra la media. Sempre sul fronte stipendi, l'ISFOL registra per i dipendenti a termine un salario medio pari a 945 euro. Al variare dell'età, il guadagno di un precario resta però al palo. Si va dagli 834 euro degli under 25 ai 996 euro dei 35-44 anni. Gli under 35 rappresentano oltre la metà dei precari. Sorprendono i bassi stipendi degli under 25, sempre sotto i 1000 euro. E come certifica l'Istat, i salari in Italia lo scorso anno sono cresciuti di un magro 1,9%, ben al di sotto del tasso di inflazione. Serve una svolta, così la Segest, azienda emiliana di comunicazione e relazioni pubbliche con 30 dipendenti, ha annunciato l'intenzione di condividere con dipendenti e collaboratori almeno il 20% dell'utile netto della società. Questo anche per non far fuggire all'estero i migliori talenti, come ci spiega il presidente Paolo Bruschi. Va nella direzione, ma da sempre, da quando è nata Segest, quella della ricerca e la qualificazione delle nostre intelligenze, diciamo, nel nostro segmento, e ovviamente la necessità di mantenere nel nostro paese e possibilmente nella nostra azienda le persone più, diciamo, capaci che riusciamo ad incontrare, per noi è un valore, è il valore, l'unico valore aziendale che abbiamo. Il rischio è che si disperdano queste intelligenze in giro per il mondo. Io ho una figlia che si sta laureando e da un certo punto di vista sono infastidito dall'idea che possa essere attratta non tanto da un altro paese ma da altre opportunità. Io vorrei offrirle a lei, a loro, a tutti queste opportunità nel nostro paese, perché ne abbiamo bisogno. E poi non è corretto, anche non è giusto nei confronti di queste generazioni che non si faccia tutto il possibile per mantenere qui queste forze. C'è tempo fino a dopodomani per partecipare al Mind the Bridge Summer Batch, programma di accelerazione delle startup in Silicon Valley. Tutte le info su mindthebridge.org/accelerator. E scade il 19 aprile il termine per candidarsi al 7° premio Best Practices per l'innovazione promosso da Confindustria Salerno e dedicato alle aziende innovative. Tutte le info a premiobestpractices.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti doveva portarci lontano, ci doveva portare fino a Singapore, fino in Asia. Purtroppo però un imprevisto dell'ultimo momento con un aereo ci hanno privato del protagonista della puntata, che si chiama Riccardo Bellotto, 30 anni, è un designer e architetto a lavoro a Singapore. Vi raccontiamo brevemente la sua storia, perché comunque è una storia che ci sarebbe piaciuto raccontare più in dettaglio, aerei permettendo, perché Riccardo è un designer, architetto a lavoro appunto a Singapore, approdato nel sud-est asiatico al termine di un lungo percorso lavorativo iniziato a 14 anni. Durante e dopo gli studi da geometra e all'università da architetto si è cimentato in una grande quantità di lavori, inizialmente come collaboratore dipendente, poi aprendo anche un proprio studio. E in entrambi i casi, purtroppo, Riccardo si è scontrato con un paese dove essere pagati in tempi ragionevoli rappresenta un lusso, e anche quando si riceve un compenso gli importi, purtroppo, sono sempre scarsi a fronte del lavoro fatto. Il colpo di fulmine professionale Riccardo l'ho avuto in viaggio di nozze tra Singapore e Malesia, dove ha scoperto un mondo assolutamente nuovo, interessante, un mondo che lo ha entusiasmato al punto da portarlo a inviare curricula nel sud-est asiatico per, pensate, un anno intero. È giunta alla fine la proposta di lavoro ed è approdato, è partito l'autunno scorso Riccardo per Singapore, dove è stato assunto inizialmente come designer. Dopo un solo mese è stato confermato e in soli 5 mesi è stato promosso a senior designer a capo di un proprio team. Pensate, in soli 5 mesi, il suo team è assolutamente internazionale, multinazionale. Ora si sente pagato e valorizzato per quanto vale realmente, e con l'Italia, dice, lavorativamente, purtroppo, diciamo noi, ha chiuso. Ci piace ricordare una frase che Riccardo ci ha scritto preparando la puntata, che secondo me racconta tutta anche l'amarezza di lasciare l'Italia. Tra poco più di 48 ore vedrò l'Italia da un oblò e penserò che, per quanto sia un bel paese, non è un paese per giovani. A Singapore voglio dimostrare che avere 29 anni non significa essere giovani se dietro ne hai 15 di lavoro. Singapore non è un paradiso né un'utopia, ma è sicuramente meglio del paese che lascio. Queste le parole con cui Riccardo si è presentato a settembre a Giovani Talenti, con le quali vogliamo anche un po' chiudere questa parte di racconto sulla sua storia. Purtroppo, ricordiamo, non è potuto arrivare in tempo causa ritardo aereo, ma cercheremo, questa è la promessa, di recuperarlo nei prossimi mesi quantomeno. Ed è qui con noi l'ospite della puntata, Bettina Di Virgilio. Buon pomeriggio. Ciao Bettina, l'abbiamo invitata come ospite per commentare inizialmente la storia di Riccardo, ma anche lei, e questa è la cosa interessante, è una storia speculare, anche se ha fatto una scelta diversa. Bettina infatti, anziché emigrare, lavora dall'Italia per l'estero. Ma da quello che abbiamo detto, da quello che abbiamo raccontato della storia di Riccardo, e doveva essere appunto il protagonista di oggi della nostra puntata, quali sono un po' le considerazioni che ti vengono in mente? Cioè effettivamente dover andare via dall'Italia, come nel suo caso, andare a Singapore, per poter essere pagati, retribuiti, valorizzati giustamente, non è scandaloso oggi? Senz'altro sì, è scandaloso, come lo è per tutte le professioni, il design in particolare, e anche l'architettura, la progettazione qua in Italia ha grosse difficoltà. La storia che ho sentito, ecco, non è niente di nuovo da quello che sento da tanti colleghi, amici. Abbiamo fatto un po' tutti questo percorso e c'è chi si è accontentato, diciamo, di rimanere qui, e chi invece ha cercato di fare un salto, andare verso l'estero. Tu hai tanti colleghi all'estero? Sì, ho tanti colleghi italiani che sono emigrati e purtroppo anche tanti colleghi stranieri che sono venuti qua in Italia, perché Milano è il paradiso del design, l'eccellenza, tuttora riconosciuto. Il problema è che loro vengono qua, imparano, non trovano spazio, quindi se ne vanno. Prendono il nostro know-how e diciamo che ci fanno guadagnare gli altri paesi. Ecco, anche questo è un grosso peccato. Ecco. Bettina, tu sei toscana, sei nata a Siena. Sì. Rapidamente parliamo della tua storia. Ti diplomi al liceo scientifico, poi ti trasferisci a Milano, ti iscrivi al Politecnico, corso di laurea in design industriale. E da lì parte una carriera che in pochi anni veramente assomma una quantità notevole di esperienze. Ce la riassumi? È buffa la mia carriera perché io ho fatto tantissime cose e sono forse poco focalizzata. Milano dà delle grandissime opportunità perché è una città molto, molto ampia, molto ricca di creatività. Qui nascono le idee, me l'hanno sempre detto ed è vero, lo sottoscrivo tuttora. Quindi ho avuto la possibilità di sperimentare diverse professionalità, non solo il design, ma anche, non so, per esempio scrivere, collaborare con case software e così via. E ho quasi subito iniziato a lavorare in proprio grazie a questo, cioè al fatto che confrontandomi con tante discipline sia riuscita ad accumulare, diciamo, guadagno. Ecco, un guadagno che mi ha consentito anche un po' di fare quello che mi piaceva. E tu hai aperto a Milano vari studi, sì, più studi anzi di design. Sì, con questo, quali risultati? Allora, lavorando in proprio ho aperto tanti studi perché magari a volte ho anche in funzione del collaboratore che trovavo. E lavorare in proprio vuol dire fare un po' il giocoliere, vuol dire che tu per mantenere il tuo flusso di cassa, diciamo, devi focalizzarti su tante diverse attività, non basta il design assolutamente. Attualmente di cosa ti occupi? Lavoriamo nel design e lo sviluppo del prodotto industriale, come ti dicevo, soprattutto con la Cina, ma penso che questo sia anche dovuto al fatto che la produzione si è spostata là tantissimo. Qua in Italia ho mantenuto le mie attività di consulenza più legate all'informatica. Tu sei speculare alla storia che volevamo raccontare, appunto quella di Riccardo, proprio perché lavori in Italia, ma soprattutto per l'estero. In percentuale il fatturato che fai fuori, in particolare in Estremo Oriente, qual è rispetto a quello che fai in Italia? Grosso modo la metà, e devo dire penso l'80% di quello che è il design. E come sono come clienti cinesi? Perché è bello quello che ci scrivevi, il fatto che qualche tuo amico ti dice ma ti pagano, sono affidabili, e tu sì, dici certo, più degli italiani. Questa è un po' una comica, nel senso che l'italiano è molto diffidente, secondo me spesso perché siamo noi prima non essere affidabili. Sì, è vero che confrontarsi con un paese estero è problematico dal punto di vista del recupero crediti. E io però devo dire che nella mia personalissima esperienza sì, è vero che ho avuto anche problemi di pagamenti con l'Oriente, però la cosa che mi fa più male è che quando hai problemi di pagamenti con l'Italia non hai nessuna garanzia di arrivare ad avere il mal tolto. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Puntata un po' anomala questa, come dicevamo nella prima parte del nostro programma, purtroppo per un ritardo, una mancata coincidenza aerea, è venuto a mancare proprio il protagonista, doveva essere con noi Riccardo Bellotto, designer e architetto a lavoro a Singapore, che salutiamo ovviamente. Speriamo di poterne raccontare la sua storia comunque nelle prossime puntate, nei prossimi mesi di Giovani Talenti. E noi siamo qui con Bettina Di Virgilio, che è l'ospite della nostra puntata. Bettina, come raccontava nella prima parte del programma, ha una storia abbastanza speculare in qualche modo a quella di Riccardo, perché lei è rimasta in Italia, ha un proprio studio a Milano, però lavora principalmente con la Cina o comunque con l'Estremo Oriente. I suoi clienti fondamentalmente sono all'estero. Come abbiamo conosciuto Bettina? Bettina l'abbiamo conosciuta quando l'anno scorso ci ha scritto una bellissima email a giovanitalenti@radio24.it che aveva una frase al centro: vivere in Italia è diventato un lusso. Questa è la frase che più mi ha colpito. Perché hai puntato su quella frase? Cosa ti ha spinto a scriverla? Ma è la conclusione a cui sono giunta negli ultimi anni. Un lusso è qualcosa che tu ti permetti perché ti piace fondamentalmente, ma paghi tanto molto di più di quello che vale. Stare qua è diventato questo ormai da tempo, perché stare in Italia è costoso soprattutto in termini professionali. In particolare per me la difficoltà sta nel fatto che lavoro con l'estero e mi confronto con un mercato del lavoro globale. Ovviamente io, dovendo tenere una tassazione comunque molto alta, un costo di vita molto alto, non posso permettermi, se non rinunciando nel mio, di tenere dei prezzi competitivi. Nella tua lettera, Giovani Talenti, c'erano tre suggerimenti. Gli stimoli per far entrare gli italiani all'estero, una tua opinione su questo, ci avevi scritto. La sovratassazione, questo lo dicevi. E poi anche, la cosa che più mi ha colpito è, perché non cominciamo a dare incentivi anche a chi qua va a recuperare capitali all'estero attraverso il suo lavoro? Perché secondo te quest'ultimo punto è così importante? È importante perché praticamente la vendita dei servizi è una cosa che può essere fatta in tutto il mondo, ma soprattutto può essere esercitata in tutto il mondo. Quindi se qua in Italia le aziende non ci sono più perché per problemi contingenti non sono più in grado di fornirmi lavoro o non sono in grado proprio di sopravvivere, perché non andare a cercare, diciamo, clientela laddove invece c'è ancora richiesta? Io ho cercato anche di capire se c'era qualche supporto da parte dello Stato, sinceramente non ho trovato, non hai trovato praticamente niente. Mi ero rivolta all'ICE, per esempio, che dovrebbe essere un ente predisposto a questo, ma mi dicevano che aiutano aziende, aiutano la vendita di prodotti italiani, quindi non so, vino, singoli designer, come però te, la professionalità professionalità non viene vista. Eppure ci sono paesi emergenti come per esempio l'India, mi viene in mente, che vendono servizi ingegneristici a tutto il mondo. E tu dici, può anche avere senso, come dire, dare degli sgravi fiscali come la legge contro esodo per far tornare i talenti in Italia, però bisogna rendere l'Italia attrattiva per tutti, questo è il punto. Se io sono qua, lavoro per l'estero e devo pagarne, diciamo, fra virgolette, le conseguenze con la tassazione, e visto che il mio lavoro mi basta avere un computer, perché devo rimanere qua? E non è solo un problema di globalizzazione e spostamento dei pesi delle economie, ma anche culturale in qualche modo. Ci scrivi, in Italia mi capita di trovare referenti più impegnati ad affermare il proprio io aziendale che a pensare al progetto. I posti di rilievo sono spesso occupati da raccomandati che sono incompetenti e disinteressati alla buona riuscita del prodotto. In Italia associamo, aggiungo io, i raccomandati al settore pubblico, ma questi rifiuti della società, la cui logica puramente relazionale, orientata al potere e disinteressata ai risultati, hanno invaso ormai anche il settore privato? E se sì, con quali devastanti risultati? Dunque, mi fa sorridere un po' il fatto che tu le vedi come un rifiuto, perché secondo moralmente me i raccomandati sono il frutto della nostra società. Purtroppo. Anzi, per assurdo vedo che chi rifiuta una raccomandazione viene isolato. Questo cosa porta? Non tanto, secondo me, un'incompetenza forse di fondo, che va, cioè, certo ci scontriamo tutti i giorni, ma anche al fatto che uno non segue quello in cui è capace di lavorare. E se tu sei in una posizione che non riesci a sviluppare, ti impegni in cosa? In affermare il tuo potere, perché comunque sei sempre a rischio, e perché non sai confrontarti con quelli che sono poi invece temi in cui dovresti mettere la testa. Parte. Io chiedo ai nostri giovani ascoltatori, pensate a quanti ne conoscete e ne vedete magari tutti i giorni nei vostri luoghi di lavoro. Bettina, tu hai trovato il tuo personale mix di successo vivendo in Italia e lavorando con l'estero. Pensi possa essere una terza via la tua, praticabile anche per altri tuoi colleghi e coetanei, magari un modello da seguire? Senz'altro è una via, non so per quanto durerà, e questa è una cosa che su cui adesso mi sto interrogando. Tu pensi di restare? Ci penso ogni giorno, sinceramente. Seconda puntata dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 25 maggio sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premieremo 6 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da adesso fino a domani a mezzanotte una email a concorseuropa@radio24.it con una proposta concreta da sottoporre agli europarlamentari. In premio per le migliori 6 proposte un viaggio a Strasburgo all'inizio di luglio. Attenzione, la proposta, anche se inviata via email, dovrà essere contenuta in 140 caratteri al massimo, la lunghezza di un tweet. Il tema della settimana è: inviateci una proposta per un nuovo programma europeo di tirocinio a favore dei giovani. Ripeto, un programma europeo di tirocinio. La casella email, la ripetiamo, concorseuropa@radio24.it. Ricordate anche di indicare data di nascita, indirizzo e numero telefonico. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Ora ci spostiamo a Ovest, atterriamo a Washington, capitale federale degli Stati Uniti, dove scopriamo un'associazione di italiani che ha messo radici nel District of Columbia. Presentarcela è Ivan Butina, cofondatore di Italians in DC. È nata nel 2009 come gruppo su Facebook per connettere gli italiani, poi si è evoluta in un'associazione non profit fondata nel 2010 ed infine siamo diventati una non profit registrata anche a livello nazionale che connette gli italiani per per poi attraverso loro promuovere la cultura italiana contemporanea, cioè gli italiani all'estero come gli ambasciatori dell'Italia praticamente. Che tipo di associati e iscritti ha Italians in DC? Sono soprattutto giovani? L'età media è tra i 35 e i 45 anni, quindi andiamo dagli studenti a dipendenti dell'istituzione come la Banca Mondiale, Fondo Monetario, ricercatori, biotecnologi, insomma e professionisti, anche chi lavora per il governo, ovviamente qualcuno che lavora per ambasciata o qualche ditta italiana dell'area. E in questa fascia d'età 35-45 anni, quali sono i motivi che li hanno portati a Washington? Qua a Washington due grandi categorie di italiani. Una sono i ricercatori, scienziati, soprattutto biologia e biotecnologia, ma anche altri tipi di scienza applicata. Poi ci sono molti professionisti delle relazioni internazionali, soprattutto economisti, sviluppo economico. Perché scelgono Washington? Perché lasciano l'Italia? In generale, secondo me, è un po' come la tendenza generale per tutto il mondo, insomma, è una ricerca di opportunità. Sicuramente nel caso dei ricercatori, se parli con loro ti direbbero che a Washington, in America, comunque ci sono opportunità di ricerca e possibilità che in Italia non ci sono per la propria conoscenza in maniera pratica. Per quanto riguarda il settore, ad esempio, chi lavora nelle relazioni internazionali, ovviamente Washington dà molta più esposizione, alla città più ambita da questo punto di vista. Ci sono grandi istituzioni, comunque una città importantissima mondiale, quindi ovviamente offre possibilità che nessuna città italiana ha da quel punto di vista. E si torna da Washington in Italia? Non credo, guarda. Non credo, e però un'osservazione interessante che farei è questa di questa nuova generazione italiana, che non è tanto più l'emigrazione verso un posto o un altro, più che siamo diventati cittadini globali, siamo più fortunati rispetto agli emigrati del passato. Quali sono le attività di Italians in DC? Italians in DC fa molte attività, appunto attività socioculturali, e facciamo promuovere la cultura contemporanea, attraverso facciamo vedere film con titoli contemporanei una volta al mese, facciamo qualche mostra artistica, abbiamo un club del libro sempre letteratura contemporanea. Abbiamo fatto due festival a cittadine, poi facciamo degli aperitivi che sono momenti insomma di incontro e un po' di networking professionale. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansindc.com. Un motivo per restare o tornare. Due giovani ricercatori italiani distintisi all'estero per gli studi svolti torneranno presto nella penisola per continuare la loro attività. Rientro reso possibile dalla Fondazione Arminis Harvard con il programma Career Development Award. Vincenzo Costanzo si trasferirà dal London Research Institute all'IFAM di Milano. Federico Forneris dall'Università di Utrecht in Olanda all'Ateneo di Pavia. Per consentire a Costanzo e Forneris di svolgere i loro programmi di ricerca a Milano e Pavia, la Fondazione stanzierà 2 milioni di dollari. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è anche aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è No ai raccomandati. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di aprile l'ha lanciata il nostro ascoltatore Giampiero con la seguente proposta. Come dare un'opportunità ai giovani, favorire il ritorno in Italia dei talenti e cambiare la classe dirigente della pubblica amministrazione? Occorre prevedere che dirigenti, direttori e amministratori di nuova nomina dimostrino nel curriculum almeno 2 anni di lavoro all'estero, almeno in paesi del G20. La condizione deve essere obbligatoria e imprescindibile, propone Giampiero. Siete d'accordo? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum, scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.